sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Anche se sei stato allevato come un essere umano, tu non sei uno di loro. Possono essere un grande popolo, Kal-El. Desiderano esserlo. Manca loro soltanto la luce che mostri loro la strada. Per questo motivo soprattutto, per la loro capacità di bene, gli ho inviato te, mio unico figlio. A noi tutti sarebbe piaciuto sapere un giorno che Marlon Brando era nostro padre. Anzi, lo era nell'identità di Jor-El, il padre di Superman, Kal-El, nel nome del suo pianeta d'origine, di Krypton. La storia è nota quanto è nota ogni storia dalla quale ormai siamo contaminati, anche se poi generazionalmente non tutti hanno avuto contatto con Superman, perlomeno nella sua prima apparizione. È supereroe perché il padre Kal-El, Jor-El, sapendo che il pianeta Krypton stava per esplodere, ha fatto uno studio, ha visto che sulla Terra il figlio, per un problema di calcoli di gravità, avrebbe avuto dei superpoteri. E quindi lo manda sulla Terra. E quindi il giovane Kal-El diventa Superman e viene adottato da Jonathan e Martha Kent, che sono due simpatici vecchietti nella cittadina di Smallville. Poi c'è anche una serie di telefilm che segue il piccolo Superman nella sua identità di Clark Kent, imbranato giornalista, imbarazzato, però con una particolarità. Lui ha la consapevolezza che quel mondo non gli appartiene, affezionato ai suoi genitori, affezionato ai suoi colleghi, innamorato delle sue colleghe, però sa che può fare imprese straordinarie, perché lui è Superman, lui è qualcos'altro, lui ha la consapevolezza di sapere che il suo padre è reale. Questo non accade a tutti coloro che hanno la sensazione o la consapevolezza o la notizia di essere stati adottati. Hanno affetto, hanno riconoscenza, hanno amore, hanno la possibilità di essere inseriti in una famiglia come qualsiasi altro essere umano. Però dentro loro c'è un rovello, dentro loro c'è il rovello di sapere chi geneticamente è il loro genitore. Guardate, al di là di tutte le sovrastrutture che ci siamo create sull'inesistenza di legame biologico, genetico, in fondo facciamo tutti parte di un grande disegno creatore, di un grande processo chimico che ci crea, che ci, secondo il punto di vista, che ci definisce. Quindi non è importante sapere qual è il legame biologico, ma è sapere qual è il legame sociale che ci ha condizionato. Il nostro imprinting ci ha dato la famiglia che ci ha ricevuto, che ci ha accolto, che ci ha avuto bene. E invece non è così. Invece c'è un grande rovello da parte delle persone adottate per capire se loro sono Superman o se loro sono qualcos'altro rispetto a quello che sono. E questo mi fa pensare che forse oggi l'argomento potrebbe essere proprio questo: sapere qual è il richiamo di sangue profondo, sapere quando la persona adottata comincia a sentire questo profondo bisogno di sapere qual è la stirpe da cui deriva, anche se l'ha abbandonato, anche se l'ha buttato via, o anche se, come il padre di Superman, lo ha mandato a compiere una missione. Fermiamoci un attimo su Superman, mentre voi chiamate l'800-24-0024 per cominciare a dare la vostra impressione o le vostre esperienze su questo rovello della persona adottata. Superman, abbiamo detto, non è un adottato qualsiasi, perché è un supereroe. La definizione di Superman, nel quale possono sentirsi incarnati questa mattina tutti coloro che sanno di essere stati adottati, ha la sua più lucida espressione nella riflessione di David Carradine, alias Bill, un istante prima di essere ucciso finalmente dalla sposa che lui ha tentato di uccidere. Fa questa definizione di Superman: come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. L'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne. L'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Io non ho esperienza diretta e non ho conoscenze profonde, le persone sono state adottate. Ma immagino, suppongo, e mi si contraddica se qualcuno ha elementi per farlo, chiamando l'800-24-0024, se pensa che quello che dico è inesatto. Ho l'impressione che la persona adottata, seppur felice, seppur contento, seppur realizzato, si senta un po' come Clark Kent, come qualcuno che ha travestito sotto e qualcos'altro, proprio come Superman, nella definizione che ne fa Bill. Superman non diventa Superman, Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. Più o meno come Beatrix Kiddo è la moglie di Tommy Plimpton. 800-24-0024. Vediamo se riuscite a seguirmi in questa metafora. Chi si sente come Clark Kent si sente in realtà veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che immagina di essere. Quello che immagina di essere è fortemente legato al vincolo ineffabile, sottile, primordiale, indefinibile e irraccontabile con chi veramente lo ha generato. E questo profondamente è il grande rovello di tante persone adottate che, secondo la legge, devono aspettare 100 anni perché possa essere loro rivelato chi è il loro genitore biologico. Anche se l'ho abbandonato, anche se non ha fatto un gesto clamoroso e generoso come quello che ha fatto appunto il padre di Clark Kent al Superman, di mandarlo sulla Terra perché lì avrebbe avuto grandi poteri. O forse anche questa è la metafora che andiamo cercando. Il genitore naturale, quando lascia il figlio che non può mantenere, che non vuole mantenere, che non ha circostanze, forza, coraggio, oggettive possibilità di mantenere, lo proietta in un mondo, lo immagina che abbia supereroi, una famiglia più agiata, perché possa avere una vita migliore, perché possa sfuggire da una situazione disastrosa in cui si trova in quel momento. 800-24-0024. Andiamo al punto. Io ho ricevuto un'email giorni fa di una nostra ascoltatrice che mi diceva: caro Nicoletti, a chi se non a te che cavalchi senza paura e senza ipocrisie posso inviare la mia richiesta di supporto. Sono una figlia adottiva non riconosciuta alla nascita e mi sto battendo assieme a tanti altri nella mia stessa condizione per poter conoscere la mia identità prima dei 100 anni prevista dalle leggi vigenti. Tante persone vanno a raccontare la loro storia in televisione e non si accorgono di venire soltanto utilizzate, perché le informazioni che possono offrire nell'aiutare i telespettatori nella ricerca sono veramente poche per avere qualche speranza fondata di centrare l'obiettivo. Di fronte a una possibilità di affermazione della propria identità così potente, così illusoria come quella di andare in televisione, di fronte alla certezza di avere comunque un legame riconoscibile di sangue con altre persone che dà un semplice documento con un nome, ci si dibatte sull'argomento di questa mattina. Io sono Emilia e sono una figlia adottiva non riconosciuta alla nascita, comunemente chiamati figli di NN. Niente, la mia storia è una storia abbastanza simile per certi versi a quella di tanti altri nella mia condizione. Io direi che i momenti salienti della mia storia, quelli che vi voglio raccontare, sono il momento della rivelazione, cioè quando io ho scoperto di essere adottata, e l'ho scoperto per l'appunto a 23 anni, perché mia madre aveva avuto un ricovero in ospedale e io dalla cartella clinica lessi che lei non aveva mai avuto figli. Naturalmente la scoperta di essere Clark Kent soltanto in una ricostruzione sociale può avvenire attraverso varie maniere. C'è la rivelazione diretta, C'è l'essere oggetto, immagino, dello scherno e dei sottintesi delle persone, dei compagni che sanno che il loro amico, compagno di scuola, compagno di classe, un adottato, prima o poi glielo dicono o glielo sbattono in faccia. C'è una scoperta totalmente casuale, c'è una scoperta, come appunto nel caso della nostra ascoltatrice, guardando una cartella clinica già in età adulta, si accorge che la madre è nullipara, non ha mai avuto un figlio, non ha mai partorito, e quindi lei non può essere figlia di quella carne. Si dirà in una lettura superficiale, vabbè, ma cosa gli interessa, quella è la sua mamma a tutti gli effetti, l'ha levata, l'ha cresciuta, deve esserle grata. Tutto questo è giusto, è dato per scontato, però improvvisamente questa signora si accorge che dentro di lei comincia a covare il profondo, comprensibilissimo e per nulla detestabile desiderio di capire qual è il pianeta Krypton da cui lei proviene. Da qui naturalmente il trauma che è un altro elemento comune delle nostre storie, il trauma per cui tu cominci a guardarti allo specchio e dire chi sono, qual è la mia vera vita, qual è la mia identità, diventa un coinvolgimento totale di tutta la tua esistenza. A me, per esempio, ha procurato una svolta esistenziale e decisiva. Io ero fidanzata da tanti anni con un ragazzo e lo lasciai proprio perché mi sembrava che la vita che fino a quel momento era la mia non mi appartenesse più. È drammatico. Quando Clark Kent si accorge di non essere soltanto Clark Kent, interrompe tutte le relazioni della sua vita, non può più sostenere di avere una vita da Clark Kent quando immagina di poter essere Superman. Mi si perdoni una metafora così estrema, ma fa parte della mia formazione letteraria infantile e trovo questi esempi ben calzanti. Maria Virginia, buongiorno. Buongiorno. Io come Emilia faccio parte di questo movimento di figli adottivi non riconosciuti alla nascita. Ah, quindi proprio un movimento organizzato? Sì, esatto, un movimento di idee che si starà per costituire in associazione. Ma siete quelli che faranno un convegno a Napoli, mi sembra, fra esatto, qualche tempo? Se lei mi dà l'opportunità di poter dire, Emilia ha ben espresso la condizione psicologica. Io vorrei introdurmi dicendo appunto di questo convegno che ci sarà il giorno 15 all'Annunziata, nella quale noi fortemente chiediamo soprattutto ai politici che intervengono la possibilità di accettare la nostra... Ho capito, signora, lei però non me la ributti, mi sta uccidendo tutto il pathos che sto cercando di dare alla trasmissione. Lo so, ma è importante... Il sì, è importante, però l'ha detto, signora, l'ha detto l'associazione. C'è un convegno a Napoli in cui farete appello. È importante la modifica. Sì, ho capito, ma guardi... Signora, scusi. Non è che le voglio dare sulla voce, ho già pensato a questo e già ho pronta una persona che mi dirà in maniera sintetica, breve e referenziata qual è il problema legale. Qual è il problema giuridico? Il problema legale di sì, ho capito, signora, condizione. Ma non decide lei quando lo devo dire. Mi scusi, non è che vorrei alzare la voce. Mi parli se vuole della sua esperienza. Stia tranquilla, darò informazione completa e dettagliata su tutto ciò che vi aspettate che faccia la politica. Allora diciamo che rispetto a questo c'è un problema di identità che viene prima del riconoscimento che istituzionale attraverso. Per lei come è avvenuto? Per me è come è avvenuto. Diciamo che queste sono delle sensazioni che si provano soprattutto da ragazzi, benché accolti in una famiglia che ha dato il massimo dell'affetto e il massimo della comprensione. Il sentire questa percezione avviene perché il non riconoscersi in una figura da un punto di vista fisico qual è quella dei genitori, benché insomma essa sia stata sempre edulcorata. Ora mi faccia capire, signora, mi scusi, ma secondo me è importante anche questo aspetto. Noi mettiamo sempre prima gli aspetti formali, quando poi gli aspetti sostanziali sono quelli legati alla carne. Ci si riconosce a un certo punto in una carne diversa rispetto alla carne delle persone a cui dobbiamo una gratitudine immensa perché sono occupati di noi per tutta la vita. Questo è uno dei primi passi, cioè il momento in cui lei non si riconosce nella persona che l'ho accolta, si rende conto che c'è insomma si percepisce, non c'è una sensazione fisica, mi faccia capire, glielo venga a dire. L'abbraccio della madre adottiva, quando si ha la certezza che non è la madre naturale, ha un sapore diverso o è sempre la stessa cosa? No, è sempre lo stesso. Questo è importante. E questo è importante. Ecco, ma dove si trova allora quel rovello che ci fa cercare la carne che ci ha generato naturalmente e concretamente? Un sentirsi diverso perché è adottato. Il problema, al di là degli affetti, al di là dell'essere accolto, è il primo è quello dell'identità che manca ad un individuo. L'identità non è completa. Non è riconosciuta, che lei si sente che non è riconosciuta. Quindi tutto ciò che viene dopo, nel momento dell'adozione, nel momento dei nuovi rapporti, è una storia che secondaria, ma cioè secondaria non in senso diminutivo del termine, e che viene dopo, ma il primo momento, il primo impatto è l'avvertire dentro se stessi di non essere stati riconosciuti, qualunque sia il motivo per cui la madre o il padre biologico ti mette al mondo e poi non ti riconosca. Ma questo mi sembra molto chiaro, è su questo il punto su cui vorrei sollecitare i nostri ascoltatori. 800 24 00 24, questa ansia, questa angoscia espressa dalla signora, espressa dall'ascoltatrice, che adesso continueremo a sentire nella sua testimonianza, è data proprio dal fatto che in fondo ci manca qualcosa se non abbiamo il riconoscimento del legame biologico da cui appunto proveniamo, la stirpe che ci ha generato. Quando ho scoperto questa cosa, naturalmente i miei genitori adottivi nemmeno per un attimo hanno avuto da me meno amore, anzi posso dire di più, perché all'amore andava ad aggiungere anche la riconoscenza. Purtroppo tra di noi questo era un argomento tabù. Io capivo che loro non ne parlavano con piacere e quindi ho evitato di parlarne con loro per non dargli un dolore. Purtroppo dopo pochi anni da questa scoperta che io avevo fatto, i miei genitori sono morti. Devo dire che gli argomenti sul piatto sono veramente tanti, stanno già telefonando tante persone, adottanti, adottati, persone stando per adottare, sono varie e variegate le forme dell'adozione, ma il problema questa mattina non è l'adozione, il problema è questo legame che sembra così antimoderno, così lontano, è così contraddetto da tutte le scoperte scientifiche, con la carne che ci ha generato. Oggi vedo una notizia sui giornali di una delle tante scoperte della scienza che hanno un'attuazione nel campo della procreazione. Mai si fermerà la scienza, mai noi alzeremo le braccia in nome della naturalità nei confronti della tecnica che permette all'uomo di vivere meglio. Comunque è singolare vedere una nonna di 56 anni che partorisce 3 gemelline che in realtà sono suoi nipoti ma sono anche sue figlie, perché sono generate dagli ovuli fecondati dalla figlia con il marito che non riuscivano naturalmente a generare figli, quindi hanno fecondato l'ovulo, l'hanno messo dentro la nonna ha partorito 3 nipotine. C'è la vecchia, poi mia coetanea, magari avercela, potrebbe essere una mia compagna di scuola, con in braccio i 3 gemellini e con i genitori sorridenti, questa deliziosa famigliola, quali problemi avrà crescendo? Quale sarà la percezione dell'utero o del ventre da cui sono state partorite di queste 3 bambine? E quale nuova articolazione saprà nella consapevolezza di essere un essere umano quando comincia a essere così frastagliato, svariegato e anche così meraviglioso da un punto di vista romanzesco il proprio legame con la madre che ci ha generato? Mi scrive Tommaso Labranca, che è un nostro fedele ascoltatore, ma non deve assolutamente esistere questa cosa del riconoscimento del genitore naturale, sennò gran parte della letteratura, soprattutto il romanzo d'appendice, il feuilleton, non avrebbe più ragione d'essere, in cui la chiave narrativa fondamentale è che il trovatello, il disgraziato, il figlio di nessuno, improvvisamente figlio di un grande nobile, di un principe, di un re, e la sua vita cambia radicalmente. Melog 2.0. La legge vieta alle madri che hanno dato in adozione di ricercare i propri figli. Non ho paura di conoscere chi era mia madre, perché chiunque essa fosse stata, è una donna che si è trovata in difficoltà, è stata probabilmente costretta, stiamo parlando anche degli anni 50, ma anche se parlassimo dei tempi più recenti sarebbe così. E quindi io comunque la rispetterei, certamente non potrei dire che l'amerei come una madre, questo sarebbe retorica e basta. Mia madre è stata la madre che mi ha creato cresciuto, è stata la mia madre adottiva, però io finalmente potrei sapere qual è la mia identità, potrei sapere anche la mia identità genetica, che è importantissima per la prevenzione delle malattie, e potrei sapere la mia storia. Le chiederei semplicemente: raccontami la tua storia, che poi è anche la mia. 800 24 0024, stiamo cercando di risalire una china molto difficile, molto scivolosa, che è la richiesta, il desiderio lecito di conoscere profondamente e a fondo e completamente la propria identità da parte di persone che hanno saputo di essere figli adottivi. Mi scrive una nostra ascoltatrice su Facebook, dice che secondo lei la questione è tutta del tipo di rapporto tra genitori adottivi e figli, adesso rapporto di sincerità. Suo figlio ha 4 anni, un giorno gli ha chiesto: mamma, io sono stato nella tua pancia, vero? E gli ho risposto di no. No amore, sei cresciuto nella pancia di una signora, ti ha tenuto al calduccio, ti ha dato da mangiare fino a quando ha potuto. Poi dopo che sei nato, mamma e papà sono venuti a prenderti. Non sa se il figlio ha recepito, ma crede comunque di sì. Se eventualmente un domani il figlio gli dirà: ma non mi rompere le scatole, quando cresce magari tu non sei mia madre, non me ne importa niente, e io lo aiuterò in tutte le maniere, se vuole, a cercare le sue origini. Anche se la legge non lo permette, ci sono altri mezzi, chi l'ha visto, internet e altri più o meno leciti. Poi, rispetto a questo problema, c'è un fatto di cronaca molto recente: un giocatore dell'Inter, Mario Balotelli, è stato al centro di cronaca e ha risposto con molta dignità quando vari giornali mostravano la coppia dei suoi genitori naturali improvvisamente riapparsi, che facevano foto patetiche con la maglietta dell'Inter in mano, e ha detto: questi due signori, Thomas e Rose Barois, che hanno detto sono i miei genitori naturali, non mi interessa di incontrarli, allora mi hanno lasciato. Adesso che sono un giocatore di Serie A, è famoso, titolato, ricco, vengono a ricercarmi. Io voglio bene ai genitori che mi hanno adottato, non ho nessuna voglia di incontrare loro, anzi trovo abbastanza triste questo tentativo di rendersi pubblici, di diventare noti, giocando sul fatto che sono loro figlio naturale. Quindi non è vero che l'atteggiamento delle persone adottate sia univoco, che tutti hanno il desiderio di abbandonare il Clark Kent che gli impone appunto il loro status e ricercare il loro probabile è padre da un altro mondo lontano, sconosciuto. Abbiamo per esempio al telefono Loreno. Loreno, buongiorno. Buongiorno. Sì, ho ascoltato quest'ultimo fatto di Balotelli, di cui io oltretutto non ne sapevo nulla. Allora, io sono un papà adottivo. Io probabilmente rimuovo questa mia condizione, sono io che la rimuovo, perché non, solo quando qualcuno me lo ricorda oppure sento una trasmissione, ecco, mi riviene in mente il fatto. Io ho adottato mio figlio che aveva 2 anni e mezzo, ora ne ha 14, e a me non sembra che lui ha sempre saputo di essere adottato, anche perché essendo nato in Africa la differenza è stata sempre evidente, insomma, almeno la differenza di pelle. Beh, se ne accorge che non è proprio esattamente uguale ai genitori. Sì. Certo, quindi lui l'ha sempre saputo. Poi abbiamo fatto un percorso, abbiamo le fotografie dell'orfanotrofio, insomma, ha il suo album in cui lui sa tutto quello che è stato il suo percorso. Non ricorda nulla, era troppo piccolo. Non ha mai chiesto, cioè, niente. Per lui essere di Modena o essere di una città qualsiasi africana era la stessa cosa, cioè non aveva questa curiosità. Lui ha una profonda identità locale, o almeno, cioè, a me sembra, non, mi metto in discussione. Lei giustamente dice, mi stava dicendo, mi metto in discussione. È difficile, ma noi diamo voce e parola a coloro che lo sentono sulla carne il loro problema. È chiaro che mai uno si rivolgerà ai genitori adottivi con sensi che non siano di grande gratitudine. Però evidentemente fra le tante persone adottate qualcuno sente questo bisogno, o a un certo punto la sua vita lo sente, come ad esempio Cristina, che invece mi sembra che rappresenti una situazione contraria rispetto a quella che noi stiamo in questo momento esponendo. Cristina, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la radio e per la trasmissione. Allora, io posso chiedere una cortesia? Scusi se la prende lei per tutti questo onere. Sarei veramente grato e avrei affettuosi sensi di riconoscenza per il mio pubblico se non dicesse mai più complimenti per la trasmissione. Grazie. Benissimo. Allora, io ho 47 anni, sono stata adottata che avevo 5 mesi. da genitori di Milano e ho saputo della mia adozione che è intorno ai 7 anni. I miei genitori mi hanno preparata, se vuole, anche aiutati da un assistente sociale che al momento dell'adozione disse loro di non aspettare per dire al momento in cui lo venivo a scoprire io da sola. Come la nostra ascoltatrice che ci sta raccontando la sua storia, che ha saputo per caso guardando una cartella clinica. No, io non l'ho saputo. Cioè, i miei genitori sono venuti, me l'hanno detto loro direttamente. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ecco, i miei genitori me l'hanno detto loro e prima che appunto io venissi a scoprirlo magari da altre fonti miei. Cos'è stato poi la cosa che forse ci avrebbe spinto a risalire, diciamo, le origini genetiche? Il fatto che io poi per una malattia genetica sono diventata cieca. A parte il fatto che i miei genitori adottivi mi hanno comunque accettata e io devo dire che conoscendo molti ciechi, figli naturali, questa accettazione non l'hanno ricevuta dai loro genitori naturali, io devo dire che comunque adesso, nonostante i miei genitori adottivi siano morti, non sento il bisogno di ripercorrere la strada per conoscere le mie origini, assolutamente. Quindi, diciamo, è un sentimento non necessariamente condiviso da tutte le persone che hanno saputo di essere adottate, quello di avere il bisogno, la necessità, come appunto la nostra ascoltatrice, di ritrovare la propria identità. Per cercare la mia identità ho cominciato a chiedere dei documenti che era diciamo permesso di chiedere, era l'atto integrale di nascita dal quale appunto risultava la donna che non consente di essere nominata, e mi era stato attribuito un cognome di fantasia che poi è stato cambiato con l'adozione. E dopodiché ho cominciato a bussare a tante porte, tante porte, e purtroppo diciamo queste porte si sono tutte quante chiuse, perché soprattutto in questi ultimi anni diciamo la legge sulla privacy è una legge molto forte. Evidentemente questa profonda e viscerale ricerca di un'identità non è sentita, non è condivisa nella stessa maniera da tutte le persone che si trovano di fronte a questo problema. Questo ci dà la meraviglia della varietà delle sensazioni, degli atteggiamenti degli esseri umani di fronte a un medesimo problema. Ma naturalmente, come ci aveva detto l'ascoltatrice che ho così brutalmente ripreso, ma semplicemente perché non trovo che sia giusto che l'aspetto emotivo, l'aspetto irrazionale di un problema sia considerato di valore minore rispetto alla sua probabile soluzione giuridica, politica, istituzionale. Beh, evidentemente siamo arrivati al punto in cui è facile capire che possa esistere uno strumento legislativo capace di dare soddisfazione a queste persone. Sembra semplicissimo, ma evidentemente non lo è. Siamo migliaia di figli non riconosciuti in Italia e all'estero. Siamo gli unici che non possiamo conoscere la nostra identità, perché la legge attuale sull'adozione permette molto, diciamo, giustamente e civilmente agli adottati 25enni che sono stati riconosciuti di accedere alle proprie origini, e con questo dimostrando che non c'è il problema rispetto alla famiglia adottiva, magari di un volerli meno bene, eccetera. Questo è stato superato, perché a quelli riconosciuti è stata data questa possibilità. Noi siamo gli unici che non l'abbiamo, chiediamo che il Tribunale possa attuare una forma di mediazione fra noi che facciamo la richiesta e la madre, chiedendo alla madre se dà il consenso al superamento dell'anonimato, cosa che probabilmente dopo 30, 40, 50 anni una donna farebbe senza difficoltà, anzi forse tutta la vita che sogna questo momento. Mi sembra molto civile questa richiesta. Loro non vogliono avere in mano il biglietto con il nome e l'indirizzo dei loro genitori naturali. Voglio che una istituzione terza, un tribunale, faccia la mediazione, contatti questi genitori naturali, dica se loro sono disposti, sono in grado, se la sentono, di rincontrare, di avere un contatto con il figlio che hanno lasciato tanti anni prima. Sta scrivendo su Facebook un ascoltatore dissidente, dice: ridateci la segreteria telefonica con i pazzi furiosi, Babbo Lepre, Lallo Labrino, Maestro Diseo, quello che voleva pagare pur di mandare via Nicoletti, il suo maestro Petrarca, il mostro Burim, non c'è proprio paragone. Ecco, io vorrei capire perché dopo averlo fatto per 3 anni dovrei insistere su cose sulle quali ho deliziato e mi sono deliziato sufficientemente. Le persone che non apprezzano questa nuova versione, questa nuova lettura del programma, sanno benissimo che esiste una alternativa drastica a non ascoltare ciò che infastidisce. E non sempre mi va, e non sempre va, di solito chi sta davanti a un microfono, di mantenere e di continuare a seguire una strada anche se di successo. Ci si mette in maniera pericolosa, difficoltosa, a volte anche scomoda, a volte non sempre immediatamente gratificante, a disposizione della possibilità di giocarsi anche altre carte. In questo momento lo sto facendo, certo a me divertirebbe più parlare delle scelleratezze di Raffaella Carrà, che fa un talk show, un grande programma televisivo in cui mettono in palio bambini da adottare. Ne ho parlato tanto, mi sono divertito a fare il cattivo, mi sono divertito a fare il crudele. Oggi voglio vedere un po' da più vicino la carne palpitante umana e quale sia il suo sapore, quale sia il suo odore, dopo aver guardato per 13 anni la carne riflessa nelle macchine di riproduzione del reale. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo parlare della mia esperienza, nel senso che io non sono stato né adottato, né ho avuto genitori, né ho avuto la fortuna di essere, ecco, forse adottato. Ho vissuto in collegio e ho conosciuto i miei genitori in ruoli diversi, nel senso mia madre non è viva ma non l'ho mai conosciuta. Mio padre invece lo vedo solo come rapporto di lavoro, non c'ho proprio un padre. Ma è il suo padre naturale? Sì, sì, è il mio padre naturale, però... Lui finge di non esserlo? No, lo è, ma non è proprio capace di essere padre. Vabbè, questo accade anche a chi il padre ce l'ha sott'occhio per 20 anni la propria vita, non è che... Sì, sì, sì, sì, però ecco, quello che voglio dire io è che il legame forse chimico che lega un figlio a una madre o ai genitori, al di là di tutto quello che possono dare gli altri, i genitori adottivi, rimane. Cioè io di mia madre la vorrei conoscere... 40 anni, 6 anni. Il padre che lei conosce, con cui dovrebbe avere questo legame chimico, in realtà non scatta nulla. No, no, no, anzi, lui è molto duro, sento molto sulle mie scelte, sui miei pensieri, è molto duro. Quindi questa ricerca di legame chimico, come lo chiama lei, mi sembra un termine giusto, esatto, è più verso la madre, in cui c'è più vicino e più palpabile proprio il legame carnale. La madre in fondo è quella che ci ha generato, che ci ha costruito per 9 mesi, quindi è la mamma che si cerca alla fine. Sì, sì, sì, sì, secondo me sì, è molto più forte, forse perché non ho riscontro da parte del padre, però penso che la madre è dove noi comunque, ecco, usciamo, nasciamo, è da lì che nasce tutto, secondo me, il nostro essere. Grazie Marcello. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha una famiglia di fratelli adottati? Sì, io semplicemente volevo raccontare brevissimamente la mia esperienza. Noi siamo 4 fratelli, tutti e 4 adottati. Tutti di genitori diversi? No, allora, io e mio fratello siamo fratelli di sangue, siamo stati adottati insieme. Poi ho 2 sorelle indiane, arrivati in 2 momenti diversi, però ecco, devo dire che la mia è una storia un po' particolare, perché io sono assolutamente convinto che i miei genitori siano quelli attuali, quelli che ho sempre avuto. Cioè mio padre e mia madre non sono quelli che mi hanno generato, ma sono quelli che mi hanno cresciuto. Quindi per lei questo richiamo del legame chimico con la madre naturale non esiste? No, non esiste assolutamente. Ecco, come si spiega però che molti lo sentano? Perché anch'io sono perplesso, anch'io vi sto ascoltando, non posso dare giudizi se non ascoltare le persone. Non so, io credo che molto dipenda dal rapporto che e dalla libertà di rapporto che si instaura tra il figlio adottato e il genitore. I miei genitori non hanno mai nascosto, non si sono mai tirati indietro rispetto all'oggettività della realtà. Cioè, infatti la signora che abbiamo usato come testimone di questa trasmissione lo ha scoperto per puro caso in età avanzata guardando una cartella clinica, quindi in qualche maniera era stata ingannata da quella madre, anche se il termine in tutte le accezioni cui può essere preso. credo che questa non libertà da parte dei genitori in realtà poi generi equivoci e generi poi quello che è successo a questa signora, cioè arrivare a non so quanti anni ha, a scoprire che era stata adottata. Io ripeto, se posso aggiungere, a me è successo il contrario, cioè il padre naturale è venuto a cercarci. Io, visto che sono stato contattato da un investigatore privato che lui aveva ingaggiato, all'inizio avevo detto che assolutamente non volevo che lui rilasciasse le nostre generalità, i nostri indirizzi. Poi alla fine vi siete incontrati? Alla fine sì, perché poi questo alla fine gli ha dato lo stesso i dati, quindi ci siamo... Io malgrado me lo sono trovato un giorno sotto casa, ho dovuto comunque alla fine dirgli, incontrarlo, insomma... Comunque era come un estraneo, mi sembra di capire, per lei. Come? Era come un estraneo, totale. Assolutamente un totale estraneo, tant'è che io gli ho detto, guarda, mi dispiace, io ti sono grato perché sia tu che la madre naturale, piuttosto che prenderci e metterci in un cassonetto, avete deciso di metterci in un istituto e a darci la possibilità di avere una famiglia normale, però al di fuori di questo per me finisce tutto. Io gli ho detto, io non voglio più che tu mi cerchi, non voglio più che tu, perché non ho niente da dirti, io non ho veramente niente da dirti. Grazie Carlo. Andrea. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, io sono un papà adottivo, la mia storia assomiglia un po' a quella dell'altro ascoltatore che ha chiamato. Volevo prima di tutto sottolineare il fatto che oggi l'adozione è molto diversa da quella di 20-30 anni fa e si lavora proprio per non arrivare a queste rivelazioni tardive. Quindi, cioè, secondo lei, normalmente qua esprime il punto di vista del genitore che adotta, non il punto di vista della persona adottata, che per quanto sia poi possono essere divergenti. Dipende dal fatto che l'ipocrisia nel non rivelare nei tempi giusti, nei momenti giusti, il reale rapporto di adozione può creare questa ansia per il legame biologico, che in realtà questo, è qualcosa... Questo, guardi, è sottolineato da tutti gli psicologi che lavorano nell'adozione oggi. Cioè, loro sono convinti che il legame con i genitori debba essere un legame di lealtà, perlomeno. Poi sappiamo che anche nei legami biologici ciò non accade sempre, chiaramente. Però esiste qualcosa che mi lascia un punto interrogativo. Vi faccio sentire l'ultimo pezzo, la chiusura della testimonianza di questa ascoltatrice, in cui lei dice: se anche non riuscirò a ottenere quello che stiamo cercando di ottenere, passati 100 anni sarà mia figlia che andrà a ricercare le origini, quella che sarà la sua nonna, per questo legame così forte che io penso anche di ereditare il desiderio di conoscerla. Io ho due figli, ho raccontato la mia storia, i miei figli mi sono vicini e mi stanno aiutando in tutti i modi, perché anche per loro questa è una cosa importante, soprattutto perché vedono quanto è importante per me. E sono sicura che se la legge, come non credo, non dovesse cambiare, allo scadere dei 100 anni, cioè quando io sarò morta, mia figlia continuerà quello che io sto facendo, perché lei sa quanto io ci tengo. La cosa meravigliosa è quando si parla di sensazioni che intaccano la nostra parte più profonda, non esistono mai giudizi assoluti. Ognuno si sente sulla carne quello che si sente, se poi lo racconta. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0.